si sta utilizzando qualche baracchino. Grazie Robert, sì, sto usando il DAC con Tana più 3. Ma con quante volte stai uscendo? 5 watt, 6 watt. No, c'è qualche problema tu? Ho qualche problema io? Non me l'ha detto nessuno, ho qualche problema. 5 watt. Allora, lui è Franco 9 più 30, tu sei quasi 9 più 40, e tu normalmente sei alle tue 9,50. Se ti sto dicendo che sono con 5 watt, Franco è con 100 watt. Ma Claudio, io non ti ho mai sentito così basso, anche con un watt, non ti ho mai sentito. Controllati se è tutto a posto di cosa, se c'è rientro o qualcosa. No, va bene, va bene. Aspetta che commuto la radio, c'è a vedere. C'era in direttiva, ieri io vi stavo ascoltando, tu eri in direttiva e arrivavi con questo segnale, Gefla. Roberto, ti contraccambio il rapporto di segnale, 59 più 20, Roberto, qua sei arrivato. Guarda a vedere. Sì, adesso sei salito a quasi a 9,50. Quindi l'antenna è giusta. Io sinceramente qua non ti ho mai sentito, non ti voglio spaventare, ma è così basso, mai sentito, la prima volta ti vedo con un segnale così. Grazie, fa il segnale comunque. Io Roberto quanto sono? 9,30 da te? 9 più 30, non so cosa stai utilizzando, che potenza, comunque il segnale 9 più 30, radio 5 è perfetta. Guarda, adesso ho ricambiato, commutato l'antenna. Questa è l'antenna sua. C'è niente da fare. Ma sempre col DAC sì o hai cambiato apparato? Sempre col DAC. Ma non lo puoi attaccare solo per controprova. Non te l'ho attaccato, Roberto, ho commutato anche il modo segnale quello. Questo c'ha 5 watt. Cacchio, arriva più forte il coso, Alessio, quando attacca qua, cioè con l'antenna da 13, che tu sei molto più vicino, che strano. Ma cosa antenna da 13? È attaccato a te, al tovello. A parte il fatto che la sua radio ha 4 watt e non ce li ha, perché al tovello anche il baracchino c'ha 15 watt o 10 watt, insomma, questa c'ha 5 watt e sta segnando neanche. 4 watt e mezzo, modulati 5. Non lo so, io ti ripeto, non ti ho mai visto col segnale, anche con pochi watt, così forte, il segnale forte, si stiamo parlando di 9,40, però arrivavi sempre molto più forte tu di segnale, anche con potenze più basse. E ti hai presente, c'è il segnale di Antonio Grode, quando ho ascoltato Antonio Grode, Fabrizio arriva più forte, arriva a 9,40. Non lo so, vabbè, questo è il DAC, 4 watt è il segnale giusto perché con Massimiliano gli arrivano 9,15, quindi è quello il segnale con i baracchini. Roberto, vedi un po' adesso quanto sto arrivando, prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boh, più o meno come prima, forse leggermente di meno, però vabbè, non è che l'abbiamo memorizzato bene il tuo segnale, più o meno come prima, forse adesso i picchi sono leggermente inferiori, boh. No, adesso ho abbassato. Praticamente sto pilotando quasi 40-50 watt modulati, dai. Di 9,30, parte da 9,25 arriva a 9,30. Claudio, il segnale uguale è il mio, sempre lo stesso. Ma non c'è nessun altro, Fra? Cosa hai detto, Fra? Ho detto il segnale è sempre uguale, guarda un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Ricorda che non scende nessuno qua, pure se ti buoni sotto. Però c'è il giusto segnale, dai. KK, no, Robert c'era Gianni, ma è passato il QRT, è andato a fare carica batteria, tutto qua. Ok, mi riprendi Robert, io mi allontano un attimo e vado a prendere le sigarette perché le ho finite. Scusa, qua, ho sentito, ieri non sono entrato perché stavo facendo ascolto, dice che c'è questa manifestazione di CB, cos'è, dovrà farlo? Guarda, non so cosa dirti, io non so neanche dove è. Chiedi a Claudio, magari lui è più informato di me. E a Claudio ho detto, a te sto dicendo. Cosa, Roberto? Questa manifestazione di CB, dov'è qua? Adesso nulla io non so niente, me l'ha accennato Antonio, parlate con lui, io non so niente. Ah, non fai parte tu del gruppo organizzativo? No, assolutamente. Avrò sicuramente l'invito da parte di Antonio, non ci sono problemi, sarò presente, io nella parte organizzativa non so assolutamente niente. Vabbè, una cosa così, tanto per fare qualcosa di diverso, di interessante, magari ci va giù con qualche radio, qualcuno che vuol portarle e far conoscere a qualcuno che ha qualche idea di entrare in radio, magari io sono convinto che qualcosina qualcuno si riesce a convincere. Ma vabbè, che la devono fare, poi mi dici se sto andando bene in radio, lascia perdere il segnale. Il radio sei perfetto, Cla, non ti voglio spaventare, perfetto, considerando come esci normalmente di segnale, io basso a questo livello non ti ho mai sentito da quando ti ascolto, sempre oltre 9.40. Vabbè, 9.40 col cable, ma con i baracchini non posso mai arrivarti 9.50. Allora, col cable arrivi 9.50 e poi quando attacchi arrivi a 9.60 e anche di più certe volte. Però 9.40 di coso mai, sempre oltre 9.40, anche con quell'altro baracchino, prova l'altro baracchino che avevi, ma sei sicuro saranno 5 watt quel baracchino, quel DAC? No, vabbè, questo è il DAC, è quello che va più basso di tutti, ma è essenzialmente la migliore che ho dei baracchini. Poi si attacca il Zodiac che sicuramente c'ha qualche watt in più e quindi mi senti meglio. No, tu mi hai detto che c'ha 5 watt, stai uscendo, ma sei sicuro che sono effettivamente 5 watt e magari non saranno 2 watt se è a minima potenza? No, non è una manetta, 5 watt c'è lo strumento, se ne ha tutto questo, no, è a posto, è a posto. No, perché mi stavo dicendo, ti stavo ascoltando ieri sera, ieri notte, se no, sì, ieri notte, che ero, stavo facendo roba al computer e stavo ascoltando, ho sentito che avevi problemi di radio, di antenne, qualcosa, aiuto ti serve per qualcosa, dimmi. No, no, vabbè, stavo provando il 850 con la direttiva, per quello che ho capito. No, devo fare degli spostamenti perché ho l'antenna della 27 che è troppo attaccata alla centralina e mi fa delle righe, quindi le voglio eliminare, ma lo farò a tempo buono, non me ne frega niente adesso. Ma esistono per le centraline proprio amplificatrici, tu stai parlando di centralina d'antenna decentralizzata, quello lì? E allora, c'ho l'antenna proprio sotto dove passa il cavo della centralina, quindi devo spostarla di nuovo, l'avevo messa lì perché la posizione è ottima, invece devo togliere. Ma il cavo di partenza di quello lì è tutto perfetto, che non sia sbucciacchiato, hai controllato che non ci sia qualche pezzettino, perché anche sopra a casa mia ho visto, c'erano tutto convinto, infatti ho visto che c'erano delle attenuazioni sul televisore, il segnale molte volte ti mancava sul digitale terrestre, e poi mi sono reso conto che c'era il cavo mezzo isolamento, diciamo, con l'esterno, la parte esterna, la guaina bianca del cavo della TV era, come si chiama, appena appena seccata e si era aperta, allora gli ho dovuto mazzare. Come pioveva notavo dei abbassamenti di segnale, cioè ogni tanto si bloccava l'immagine. E sei sicuro che è tutto a posto il cavo di calata dell'antenna centralizzata? Aspetta un secondo. Zappa. Un attimo a prendere sigarette, vabbè dai, riprendo dopo. Ok, ora faccio una cosa a Claudio, vabbè dai, ti faccio una bassa a Claudio. Bene, fra, questo è il Zodiac, aspetta che sollevo, ora, ecco qua, questo è il Zodiac 5024, il segnale è sempre uguale. No, questo è più forte, 5 punti ti prego. Perché questo c'ha più watti. Vabbè, però ti sto parlando, era rispetto agli altri, il DAC, non me lo ricordavo più forte, buh, non mi sono confondendo. No, no, no, ti stai confondendo. Beh, ci sentiamo dopo, dai. Eia, ok, dai, sto tenendo acceso qua, poi vediamo. Vabbè. Dici, tu mi piaci, da oggi ti chiamerai Palla di Lardo. Ebbene, non venisci uno? La supermazza fin in varia. Sì. Ortugherde now, ragazzi, Ortugherde now. Tutti i russi grandi, sì, di no, ma raggiungi.